L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa nuova puntata dell'Altro Pianeta. Sono due i temi che affronteremo oggi. Nella prima parte incontreremo il professor Junio Iervolino della Università degli Studi di Napoli Federico II per un progetto di ricerca sulla prevenzione ed il contenimento dei danni derivanti dal rischio sismico in ambito industriale. Danni sulle persone e sull'ambiente, ovviamente. Nella seconda parte del programma invece ritroveremo i Plastic Busters, che sono gli acchiappaplastica dell'Università di Siena. Ma come dicevamo, veniamo prima di tutto ai rischi sismici per gli insediamenti industriali. La ricerca di cui parliamo tra poco con il professor Iervolino è stata realizzata grazie all'AXA Research Fund, che è il Fondo Internazionale per la Ricerca Scientifica e la Prevenzione dei Rischi, finanziato dal gruppo AXA, il gruppo assicurativo internazionale che tutti conosciamo. L'Italia, vale la pena ricordarlo subito, è il secondo paese europeo più esposto al rischio sismico per sinistri legati a terremoti e quindi ancor più è importante per noi conoscere la ricerca. Sentiamo cosa ci ha raccontato il professore Iervolino appunto sul loro progetto. È un sistema per la riduzione del rischio sismico in tempo reale, cioè durante un terremoto, mentre il terremoto sta avvenendo, quindi non ha niente a che fare con la previsione dei terremoti, che come sappiamo non si può fare, ma mentre il terremoto sta avvenendo si può tentare con grande incertezza di stabilire se questo terremoto sarà un terremoto dannoso e quindi mandare un allarme prima che le onde sismiche raggiungano un sito da proteggere, diciamo, perché le onde sismiche viaggiano ad alcuni chilometri al secondo, mentre noi sappiamo che un segnale di allerta può viaggiare con le onde elettromagnetiche via radio, per esempio, quindi molto molto più veloce. Poi in realtà questo tipo di sistema consente anche di valutare molto rapidamente l'eventuale stato di danno dell'edificio a seguito del terremoto che sta per arrivare e quindi diciamo anche gestire eventuale rischio sismico per le repliche. Dunque, quindi l'idea è di utilizzare questi pochi secondi che ci sono a disposizione per mettere in sicurezza. Che tipo di industrie, di che industrie stiamo parlando? Ogni tipo di industria, diciamo, in cui ci sono azioni, attività in corso pericolose, quindi in realtà non sono industrie, ma diciamo, pensiamo a, sicuramente all'industria manifatturiera, in cui ci possono essere dei carichi mobili, delle macchine, pochi secondi possono essere sufficienti per fare in modo che diciamo, gli operatori si allontanino dalle linee in modo che non ci sia il rischio che per l'oscillazione del terremoto vengano colpiti da oggetti roventi, oppure nelle aziende dell'industria di processo, cioè delle industrie chimiche, allo stesso modo si può mettere in sicurezza rispetto a operazioni che se non sono in condizioni ottimali, ma possono essere disturbate dalle vibrazioni del terremoto, possono creare dei problemi ai lavoratori, ma non solo, possono anche poi creare degli incendi, delle esplosioni che magari innestando in pochi secondi un sistema di sicurezza possono essere ridotto. Quindi può essere efficace sia per i lavoratori che per l'ambiente circostante, appunto lei citava gli incendi o comunque perdite da impianti chimici. Certamente sì. Il problema è proprio che fermare un'attività produttiva è una cosa molto costosa, perché diciamo c'è il tempo di interruzione per cui si perde proprio l'attività, non produce più. E poi spesso c'è un costo anche legato a far ripartire l'attività, perché non è semplicemente in un'azienda complessa un bottone che si preme, diciamo. Certo, l'abbiamo sentito parlare tante volte per le acciaierie ultimamente, negli ultimi anni. Esatto. E allora diciamo, tanto più la messa in sicurezza è un'azione costosa, perché diciamo c'è una perdita dovuta al fatto che io fermo un impianto, tanto più dobbiamo avere bisogno di un sistema che sia in grado di fare una previsione molto robusta del fatto che il terremoto che sta per venire sia effettivamente pericoloso. Lei ha già accennato prima il fatto che lo state sperimentando effettivamente. Dove lo state sperimentando? Sì, noi abbiamo come partner, diciamo volontario, il gruppo Fiat. In particolare abbiamo installato un prototipo di questi sistemi all'impianto Magneti Marelli che si trova a Crevalcore, diciamo, nella zona tristemente nota per il terremoto, certo. Esatto. Senta, questo strumento per prendere decisioni in cosa consiste? Le spiego. Sono, diciamo, noi abbiamo in questo progetto una partnership sismologica molto importante col GFZ, che è il diciamo, un centro di ricerca molto importante tedesco, e loro hanno messo a punto insieme a noi degli strumenti, sono degli accelerometri, cioè perché misurano proprio le oscillazioni, uno posto ai piedi della struttura dello stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore e uno in cima, perché a noi interessa sia a terra, diciamo, lo scuotimento del terremoto appunto ai piedi della struttura, e poi ci interessa anche come risponde la struttura per valutarne i danni o i potenziali danni, e quindi per questo abbiamo un accelerometro sul tetto, diciamo, dello stabilimento. Questi due accelerometri hanno a bordo della potenza di calcolo, hanno degli algoritmi che sono in grado, in base alle vibrazioni, di stabilire quanto è pericoloso il terremoto che sta per arrivare, perché il terremoto è sempre preceduto da onde sismiche, però diciamo che non le avvertiamo mai perché sono di intensità molto piccola e vengono prima del terremoto vero e proprio, che però portano in dote una grande dote di informazione. Ma arrivano allora, prima, ma relativamente poco prima, immagino. Sì, pochi secondi. Il sensore in testa serve dopo il terremoto per stabilire che tipo di oscillazioni ha subito la struttura, quindi che tipo di danno può aver avuto e quindi qual è la sua resistenza residua in relazione a possibili repliche. Se pensa al futuro, diciamo, a che punto siete del lavoro? Lavoriamo a varie scale. Il progetto di AXA Research Fund è finito, cioè ne abbiamo consegnato quello che dobbiamo consegnare, cioè la realizzazione di questo sistema prototipo. Quello che è veramente, diciamo, ancora tutto da completare è l'applicazione di queste tecniche alle strutture, quindi proprio agli impianti da proteggere. Diciamo, noi abbiamo dimostrato la fattibilità di un sistema del genere. Quindi la linea teorica c'è adesso, bisogna metterla in pratica. Adesso, diciamo, quello che veramente bisogna fare è avere una serie di portatori di interesse, come noi li chiamiamo, imprenditori, ma anche, diciamo, chi dirige un ospedale, per essere pronti ad investire nelle applicazioni. Cioè investire nel senso richiedere che vengano installati, sì, i sensori, esatto, e così via. Esatto. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, parliamo con la professoressa Maria Cristina Fossi, come avevamo anticipato, del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente della Università di Siena, coordinatore scientifico del progetto Plastic Busters, gli acchiappaplastica, che è il progetto di punta di Med Solutions, cioè il progetto che nell'area del Mediterraneo sviluppa l'iniziativa ONU Sustainable Development Solutions Network. Med Solutions è nel suo complesso coordinato dalla Università di Siena. I Plastic Busters di cui parliamo sono entrati in azione lo scorso anno, quest'estate hanno compiuto nuove rilevazioni grazie anche alla collaborazione della Marina Militare, ma non solo, sentiremo tra poco chi sono gli ultimi nuovi partecipanti, per studiare gli effetti della contaminazione di plastiche e microplastiche sui pesci e su altri organismi marini. Sentiamo la professoressa Maria Cristina Fossi. Diciamo l'attività di Plastic Busters quest'anno ha avuto sicuramente la parte più importante dal punto di vista scientifico in questa crociera che abbiamo terminato proprio ieri l'altro, che si è svolta quindi dall'8 settembre al 18 e che ha avuto come finalità fondamentale quella di monitorare per la prima volta su scala globale quello che è la presenza e gli effetti delle microplastiche e le macroplastiche nel santuario Pelagos. Questo progetto, che era nato 2 anni fa grazie a un finanziamento del Ministero dell'Ambiente, ha avuto invece in questa crociera, diciamo, una sua visione più ampia. E i principali attori che hanno partecipato a questa attività sono ovviamente l'Università di Siena, il Plastic Busters, ISPRA, con la disponibilità della SRE e i suoi ricercatori, l'IFREMER, rappresentato fondamentalmente dal professor François Galgani, che è uno degli esperti più importanti a livello del Mediterraneo sull'impatto delle macroplastiche, e l'Istituto LAMMA, che ha dato la sua competenza riguardo a un tema fondamentale che è quello della circolazione delle plastiche nel Mediterraneo. Quindi insomma, avete assunto la vostra reale dimensione in questa spedizione, cioè una spedizione mediterranea. Una spedizione mediterranea e soprattutto una spedizione multidisciplinare, perché ovviamente un problema così importante, che è quello di definire che fine fanno le plastiche nel Mediterraneo, in questo caso nel santuario Pelagos, deve essere affrontata con un approccio che coinvolge vari tipi di expertise, vari tipi di tecnologie. Quindi, mentre appunto l'Università di Siena e il nostro gruppo siamo esperti per monitorare le microplastiche e studiare quelli che sono gli effetti sugli organismi, avevamo bisogno di competenze come ad esempio quelle dell'ISPRA, che sono fra i più importanti diciamo ricercatori che studiano gli effetti biologici sul pescato, l'importanza fondamentale di l'Istituto Lamma, che è una delle istituzioni che a livello appunto del Mediterraneo si occupa proprio dello studio delle correnti, e la competenza massima appunto dell'Infermer, che è uno dei primi che si è occupato di questo argomento. E quindi da un approccio multidisciplinare che mette insieme appunto diverse competenze, l'obiettivo era proprio quello di stabilire la presenza e gli effetti delle micro e macroplastiche in questa area marina protetta, che vede come diciamo firmatari l'Italia, Monaco e la Francia, la marina protetta che è nata fondamentalmente per la salvaguardia dei mammiferi marini, i cetacei che popolano quest'area. In questo, diciamo, uno degli argomenti principali su cui ci siamo concentrati qual è? Se esistevano veramente in quest'area delle zone più a rischio rispetto alla presenza delle plastiche. Perché questo? Noi tutti abbiamo sentito parlare delle famose isole di plastica del Pacifico, no? Questi famosi gyres, certo. Si definiscono questi vortici. Vortici in cui a causa di particolari correnti le plastiche si accumulano con una densità elevatissima, tanto da essere state definite un po' erroneamente isole. La domanda era: cosa avviene nel Mediterraneo? Nel Mediterraneo, non per particolari condizioni oceanografiche, non esistono dei gyres veri e propri, permanenti, come possono esistere nel Pacifico, ma possono esistere dei vortici stagionali. E noi in questa crociera uno degli obiettivi era proprio andare a vedere se questi vortici esistevano, e in particolar modo un vortice che può essere presente nel Mar Ligure, un vortice che è presente nelle isole dell'Arcipelago Toscano, in particolar modo vicino a Capraia, e un altro vortice che si localizza nella parte più a sud del santuario, cioè nella zona del Tirreno vicino all'Arcipelago della Maddalena. Questa crociera ha alla fine solcato ben 900 miglia. In tutto questo noi abbiamo fatto tutta una serie di, diciamo, di fotografie della zona. Da che punto di vista? Prima di tutto, io vorrei fare una domanda che forse perché c'è stata una spia, diciamo così, linguistica. Allora, c'è il possibile vortice del Mar Ligure e poi ha detto il vortice di Capraia. Quindi quello l'avete visto, quello di Capraia, e gli altri no? Ho capito male? No, allora, ovviamente la cosa da sottolineare è che noi abbiamo al momento delle osservazioni visive macroscopiche, dei dati più specifici verranno fuori solo quando noi potremo analizzare i campioni di microplastiche che abbiamo preso. Però ecco, sicuramente una delle zone che abbiamo visto dove sono presenti grandi quantità di plastiche sono, a parte la zona del Mar Ligure, di Genova, eccetera, ma sono zone più costiere. Nella zona appunto dell'arcipelago toscano, che va tra Capraia e Elba, pur avendo avuto condizioni meteo molto sfavorevoli, siamo riusciti a raccogliere dei campioni dove erano evidenti una grossa presenza di microplastiche. Quindi probabilmente dovremo ripetere e focalizzare ancora di più in quest'area, ma quest'area sembra probabilmente un'area dove queste correnti accumulano particolarmente queste microplastiche. Quindi a questo punto noi ci interessava sapere cosa succedeva in queste zone, negli organismi che vivono in queste zone. E quindi, grazie all'intervento dell'ISPRA, noi abbiamo fatto una serie di campionamenti di pesci mesopelagici, cioè i pesci che si trovano nella colonna d'acqua, con degli strumenti ad hoc che sono appunto plankton ambur net, cioè una gigantesca rete che viene calata tipo a 200-300 metri di profondità e che simula, potremmo dire, anche un po' la bocca di una balena, perché per 20-30 minuti filtra tutto quello che c'è nell'acqua, nella colonna d'acqua. È una specie di carotaggio dell'acqua, come si farebbe per il terreno. È appunto di grossa filtrazione di una massa d'acqua enorme, ma non sulla superficie, diciamo proprio nella colonna d'acqua, perché ricordiamoci, gli organismi che vivono nel mare non si nutrono solo in superficie, si nutrono in questa enorme colonna d'acqua che va dal fondo alla superficie. e quindi in questo abbiamo di nuovo raccolto gli organismi che erano presenti e su questi organismi noi misureremo se ci sono presenti le microplastiche e quanti contaminanti queste microplastiche trasportano sugli organismi stessi. Oltre a questo ci siamo avvalsi anche di campionamenti nelle marinerie locali, quindi andando a chiedere ai pescatori se avevano pescato specie di nostro interesse, come ad esempio la boga o le acciughe. Un altro aspetto fondamentale, essendo il santuario dei mammiferi marini, il nostro target sono stati proprio questi, quindi i cetacei, delfini e balene che popolano quest'area marina protetta. E quindi abbiamo fatto molteplici avvistamenti di cetacei in quest'area e abbiamo raccolto biopsie cutanee, quindi un minuscolo frammento di pelle, a quattro specie che sono fra le più importanti del santuario: la balenottera, quindi la specie protetta per eccellenza, il turziofe, la stenella e il grampo. Quindi oltre a questo possiamo vedere anche quali potranno essere gli effetti di questa contaminazione diffusa su queste specie. E non ultimo, fondamentale è stato dare anche un contributo ulteriore per capire come sono le correnti nel santuario Pelagos e in particolar modo se esistono realmente questi gyre di accumulo, grazie alle attività tecnologiche fatte dall'Istituto LAMA, per cui abbiamo lanciato dei drift, cioè praticamente sono una sorta di boe galleggianti che galleggeranno nell'area prescelta, che è appunto questo gyre del Tirreno, per probabilmente 2 anni, indicando ogni intervallo di tempo predeterminato la sua posizione. Quindi, ecco, noi abbiamo esaurito il tempo che abbiamo a disposizione, però ci diamo appuntamento prima dei prossimi 2 anni per vedere come vanno le cose. Benissimo, sì, infine appunto uno degli aspetti importanti è che dovremo cercare di portare avanti questi risultati, di nuovo con un appello a tutte le istituzioni che potranno essere coinvolte per fornire la disponibilità di fondi che permettono di chiarire questo importante aspetto dell'impatto delle plastiche nel Mediterraneo. Grazie alla professoressa Fossi dell'Università di Siena per la sua disponibilità a partecipare anche a questa puntata dell'Altro Pianeta. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.